sobre tacchia spillo, tenera nel pesante ombretto, dolcità dentro il denim stretto, candida carne da macello, solida negli sguardi austeri, viride dalle mie parole, fuori da ogni tempo e spazio, la città tempio dell'eccesso, qui resistere il vero male nella notte infernale di sabato, peccato sublime meccanico, perseverando nel gomito che s'alza e resta su. Della seduzione etilica, della gioia spesso effimera, di una corsa in moto estatica, nella sigaretta, demone di un'attualità un po' debole, che ricerca il vero, vivere nella luce psichedelica di una discoteca, qui resistere il vero male nella di sabato, peccato sublime meccanico, perseverando nel gomito che salta e resta su. Peccato sublime meccanico, perseverando salsa e resta su.